Pronti? Motore. Partito. Ciak. Azione. Ho ben poco a cui pensare adesso, esclusi i ricordi. Audiogrammi di Laura Faggin e Paolo Corleoni. You are a cinema, a Hollywood treasure. I love you just the way you are. A cinema, a cinema. Mettetevi comodi, stiamo per raccontarvi La ragazza con l'orecchino di perla di Peter Weber. Secondo tempo. A causa di un incidente che ha reso invalido il padre, la giovane Grit si trova costretta, per aiutare la sua famiglia, ad andare a lavorare come serva in casa del pittore Jan Vermeer. Il nuovo ambiente non è molto accogliente, ma con il tempo e tanta forza d'animo, Grit si abitua alla nuova vita e si scopre interessata alla pittura e alla composizione dei colori. Audiogrammi in radio come al cinema. Tanneke aveva scoperto come occupavo i pomeriggi in cui tutti credevano che stessi cucendo. Facevo da assistente al padrone. Tutto era cominciato 2 mesi prima, un pomeriggio di gennaio, poco dopo la nascita di Franciscus. Faceva molto freddo. Mi stavo preparando per uscire a prendere le medicine per i bambini, quando lui si avvicinò. Grit. Signore. Devi prendere una cosa anche per me. Dei colori. Non serve che mia moglie lo sappia. Tornata a casa, corsi verso le scale. Lui era sceso e stava aspettando. Estrassi la borsetta dallo scialle e gliela porsi. Hai preso il lapislazzuli? Puoi mescolare i colori. Mescolare i colori? Signore, non ho tempo. Trovalo. Aprì i cassetti dello stipo vicino al cavalletto e mi mostrò i colori che vi erano riposti, nominandoli uno per uno. Avvicinati. Questa è lacca di robbia, gomma arabica, vinaccia, malachite, vermiglione. Questo è olio di lino, carbone d'osso. Si polverizza con il pestello, in questo modo. Molti di quei termini non li avevo mai sentiti. I colori più costosi, i blu, i rossi e i gialli, erano conservati in piccole quantità in vesciche di maiale. In ognuna era praticato un foro da cui, strizzando, si poteva far uscire il contenuto e in cui veniva infilato un chiodino per chiuderlo. Una mattina il padrone aprì la finestra centrale, inondando la stanza di aria fredda. Lo stai osservando? I colori sono diversi. È il colore base. Dà la tonalità. Crea il chiaroscuro. Quando è asciutto ci passo una venatura di blu, ma leggera, così il nero traspare. Guarda, Grit. Guarda le nuvole. Di che colore sono? Bianche. No, non sono bianche. Gialle. Azzurre. E grigie. Ci sono i colori dentro le nuvole. Ora capisci. Da quel momento non potei fare a meno di osservare tutte le cose. Nascondere quello che facevo divenne molto più difficile dal momento in cui mi chiese di aiutarlo a preparare i colori. E talvolta mi assegnava tanto lavoro che dovevo escogitare qualche trucco per andare a lavorare con i colori anche nel pomeriggio, quando di solito me ne stavo seduta accanto al fuoco a cucire. Il padrone mi lasciò libera di organizzare le mie incombenze in modo tale da poter svolgere anche i lavori per lui. Al mattino mi impartiva le sue istruzioni ed esigeva che venissero eseguite per la mattina seguente. Piano piano presi gusto nel macinare quanto lui portava dalla spezieria: ossa, carbonato di piombo, robbia, massicotto, e riuscivo a ottenere colori luminosi e puri. Imparai che quanto più finemente macinavo il materiale, tanto più intensi diventavano i colori. Arrivare a creare questo e altri colori era come una magia. Mi abituai a stare in sua compagnia. Raramente mi rivolgeva la parola. Era un uomo taciturno. Anch'io me ne stavo in silenzio. C'era un'atmosfera serena, con la luce che entrava dalla finestra. Quando avevamo finito, versavamo dell'acqua da una brocca l'uno sulle mani dell'altra e le strofinavamo per pulire i colori. Una mattina di aprile, quando finalmente il freddo era cessato, stavo camminando verso la spezieria quando Peter figlio mi comparve al fianco e mi salutò. Non mi ero accorta di lui. Aveva un grembiule candido e portava un fagotto che doveva consegnare. Faceva la mia stessa strada e mi chiese se poteva accompagnarsi a me. Su, fammi vedere i capelli. Di che colore sono? Castani. Lisci o ricci? Nessuno dei due. Lunghi? Molto lunghi? No. In tutto l'inverno l'avevo visto una o due volte alla settimana al mercato delle carni. Mi era difficile fissarlo negli occhi, aghi che mi penetravano nella pelle. La sua attenzione mi metteva a disagio. Quando davanti allo speziale mi lasciò, mi diede semplicemente un colpetto sul gomito e proseguì per la sua strada. Dovetti rimanere per un po' ferma con gli occhi fissi nell'acqua verde del canale prima di scrollare la testa per scacciarne i pensieri e girarmi verso la porta dello speziale. Lungo il canale Ritverd c'era un vicolo e fu lì che Peter mi condusse, la sua mano sulla mia vita. Mi appoggiai al muro e lasciai che Peter mi baciasse. Tale era il suo ardore che mi morse le labbra. Non gridai, mi succhiai il sangue salato e fissai al di sopra della sua spalla i mattoni bagnati del muro di fronte, mentre lui premeva il suo corpo contro il mio. Il padrone terminò il quadro della figlia del panettiere. Questa volta ne ebbi un preavviso perché non mi chiese più di macinare o depurare colori. Ormai non gliene servivano più grandi quantità, né faceva improvvise modifiche finali come aveva fatto con la donna che si allacciava al vezzo di perle. Il fornaio si portò via il quadro in maggio, ma il padrone non iniziò uno nuovo fino a luglio. Questo ritardo mi preoccupò perché temevo che Maria Tinse incolpasse me, sebbene tutte e due sapessimo che non era colpa mia. Il giorno dopo, Marche mi disse che alla padrona non piaceva che io stessi chiusa lassù, insieme a tutti quegli oggetti preziosi. I gioielli erano i suoi e lei ne era gelosa. Non mi riferì con precisione che cosa temeva Catarina. Forse che io potessi arraffare le perle dal tavolo, ficcarmi il cofanetto sotto braccio, scendere in strada dalla finestra, fuggire in un'altra città e incominciare lì una nuova vita. A modo suo, Catarina stava cercando di lanciarmi un allarme. Sentii il cuore farsi pesante come una pietra nel petto. Quando un giorno capitai davanti al banco del macellaio e non vidi Peter, gli occhi mi si riempirono all'improvviso di lacrime. Non mi ero resa conto che avevo bisogno di vedere il suo bel viso gentile. Per quanto confusi fossero i miei sentimenti nei suoi confronti, Peter era il mio rifugio, era colui che mi rammentava che c'era un altro mondo in cui avrei potuto un giorno andare a vivere. Un pomeriggio, verso la metà di ottobre, Maria Tins venne a trovare il padrone nell'atelier. Gli chiese a quale quadro avrebbe iniziato a lavorare. Siccome non rispondeva, lei gli suggerì di farne uno grande, con tanti personaggi e non con una donna sola con i suoi pensieri. Così avrebbe avuto molto più valore. Alcuni giorni dopo, Van Ruyven e la moglie vennero a pranzo e in quell'occasione tutto era preparato nei minimi dettagli. C'era anche il fagiano arrosto. Tanne che io incominciammo a servire le portate e Maria Tins gli propose l'idea. Quante fanciulle! Presto i ragazzi ronzeranno attorno a loro come mosche. Vi confesso che se avessi qualche anno di meno... Un esperto in tutti i campi, maestro Van Ruyven. Ma dovreste essere fedele a una sola signora al di sopra di ogni altra. L'arte! Di certo il vostro nome verrà celebrato fra quelli dei grandi mecenati, con il vostro gusto raffinato, la vostra sottile penetrazione dell'allegoria e dell'allusione. No, no, no, basta. Santo cielo, signora, vendereste latte guasto alle mucche. Sentiamo, cos'è che volete? Un ritratto di gruppo, un'allegra compagnia, vino, una tavola imbandita, gli amici tutti intorno, musica, danze. Così va meglio, meglio. Abboccherò al vostro amo. Un quadro con diverse figure. Un'allegra compagnia, ma niente ritratto di famiglia. Se devo tediarmi stando seduto per ore e ore, voglio qualcosa su cui posare lo sguardo. Deve far parte del quadro. Con un gesto fulmineo, Van Ruyven, mentre mi accingevo a servire il vino, mi cinse la vita e mi strinse forte accanto a lui. La sua mano scivolò lungo la mia coscia. Me ne rimase la sensazione per parecchi minuti. Guardala, amico mio. Quanto è difficile dipingere una ragazza carina. Avrei voluto guardare il padrone, ma non osai. Posso averla? Il giorno seguente, quando fui al mercato delle carni, capii che già girava voce di quello strano quadro raffigurante una serva. Il macellaio mi fermò. Grit, circolano delle voci sul tuo conto. Non ho fatto niente. La cuoca di Van Ruyven dice che ti faranno un ritratto col suo padrone. Avrai sentito del quadro di lui e della sua domestica. Non darete credito alle chiacchiere? Ah, certo che no. Dirò a Peter che sei venuto a cercarlo. Feci pochi passi e incontrai Peter. Grit, hai sentito? Ho sentito. Non c'è fumo senza arrosto, si dice. È questo che pensi? No, sei solo una domestica, che ci puoi fare? Devo rincasare. Non scappare, sentimi. Ricordati sempre chi sei. Non farti catturare dal suo mondo. Sarò solo una domestica, ma non mi concederei mai al maestro Van Ruyven, lui... Non mi riferivo a Van Ruyven. La mattina dopo allo studio il padrone mi fornì poche informazioni. Erano state sistemate due sedie. Su una sedia c'era un liuto e sul tavolo a sinistra la custodia di un violino. La viola da gamba era sempre a terra, nell'ombra, sotto il tavolo. Dalla messa in scena era difficile capire quanti personaggi sarebbero entrati nel quadro. Più tardi Marche mi disse che Van Ruyven era arrivato con la sorella e una delle figlie. Io cercavo sempre di evitare tutti, in particolare Van Ruyven. Non volevo prendere parte a quel dipinto. La mattina seguente il padrone mi disse che nel pomeriggio sarei dovuta andare di sopra. Pensavo che mi avrebbe messa a lavorare con i colori, che stesse per dare inizio al quadro di gruppo. Quando giunsi nell'atelier però, lui non c'era. Sul tavolino di marmo non trovai nulla, non mi aveva lasciato niente da macinare. Ridiscesi dalla scaletta senza sapere che cosa pensare. Lui intanto era arrivato e se ne stava fermo in piedi a guardare fuori dalla finestra. Cosa devo... No, ho già iniziato un ritratto di gruppo. Non poserai con il maestro Van Ruyven, questo è deciso. Oh, grazie, signore. ti ritrarrò da sola. Ero sconcertata. Rabbrividii nonostante non ci fosse freddo. Aprì un'imposta, così che la luce mi piovesse direttamente sul viso. Si sedette al suo sgabello vicino al cavalletto. Portò una sedia vicino al cavalletto, girata verso la finestra di mezzo, e mi fece sedere. Togliti la cuffia. No, signore. Non posso. Non puoi. Non lo farò. Devo vedere il viso. La cuffia lo nasconde troppo. Ci sono delle stoffe nel ripostiglio. Lasciai ricadere la falda della cuffia che tornò a coprirmi l'orecchio e la guancia. Abbassai gli occhi sul pavimento, sulle mattonelle grigie e bianche che si allargavano tutto intorno a me, linde e nitide. Non potevo scoprirmi la testa davanti a lui. Non ero il tipo di ragazza che se ne va a testa nuda. Si dimenò sullo sgabello, poi si alzò. Lo udì andare nel ripostiglio. Quando ne venne fuori, aveva le braccia cariche di ritagli di stoffe. Estrasse dal mucchio un pezzo di stoffa giallo con un bordo azzurro e me lo porse. Riluttante, presi le due strisce di stoffa, mi ritirai nel ripostiglio e mi misi di nuovo davanti allo specchio. Legai la striscia azzurra sulla fronte e la striscia gialla la girai più volte a coprire la sommità del capo. Mi rimisi nella posa di prima. Era insolito per lui lavorare a due opere nello stesso tempo. Non gli piaceva passare dall'una all'altra, ma questo era l'unico modo per nascondere agli altri che mi stava facendo un ritratto. C'era però chi lo sapeva. Lo sapeva Van Ruyven. Ero sicura che il padrone stava dipingendo il mio ritratto su sua ordinazione. Anche Maria Tins era al corrente della faccenda. Probabilmente, anzi, era stata proprio lei a prendere accordi con Van Ruyven. Posavo 3 o 4 volte alla settimana, 1 o 2 ore ogni volta. Erano i momenti della settimana che più mi piacevano, con gli occhi di lui solo su di me per tutte quelle ore. Non aveva importanza che la postura fosse difficile da mantenere e che stare a lungo col viso girato mi facesse venire il mal di capo. Non aveva importanza che talvolta mi chiedesse di muovere la testa più di una volta per far oscillare la banda gialla, così che mi potesse raffigurare come se mi fossi voltata di scatto verso di lui. Io facevo qualsiasi cosa mi chiedesse. Eppure non era soddisfatto. Passò febbraio e giunse marzo, con l'alternanza di gelo e sole, e lui continuava a non essere soddisfatto. Aveva lavorato sul quadro per quasi 2 mesi, e sebbene io non l'avessi visto, capivo che doveva essere pressoché finito. Non mi dava più da preparare grandi quantità di colore, perché ne usava solo pochissimo, e mentre me ne stavo seduta, le sue mani e i suoi pennelli facevano movimenti molto ridotti. Il quadro era diverso da tutti gli altri. C'ero solo io, a mezzo busto, senza tavolini o tende, finestre o piumini per la cipria ad ammorbidire o a distrarre. Mi aveva dipinta con i miei grandi occhi, la luce che mi inondava il viso, lasciandone però in ombra il lato sinistro. Ero vestita di azzurro, giallo e nocciola. La stoffa arrotolata attorno alla testa mi faceva apparire diversa, come la grigia di un'altra città, addirittura di un altro paese. Lo sfondo era nero e dava l'impressione che io fossi estremamente sola, sebbene i miei occhi fossero senza alcun dubbio puntati su qualcuno. Aveva ragione. Il quadro poteva soddisfare Van Ruyven, ma gli mancava qualcosa. Ci arrivai prima di lui. Mi accorsi che quello che ci voleva era quel punto di luce che aveva messo in altri quadri per catturare lo sguardo dell'osservatore, ma non lo dissi. Posai 2 volte prima che scoprisse il particolare mancante. Ogni volta che io posavo, lui dipingeva con un'espressione insoddisfatta sul volto e mi mandava via dopo poco. Fu Catarina stessa a fornirgli la risposta. Era seduta al tavolo, dove c'erano il piumino della cipria e il barattolo, i pettinini e il cofanetto delle gioie. Si era messa le perle e il vestito di seta verde, adattato per nascondere il grosso ventre. Mentre lei girava la testa di qua e di là per finire di incipriarsi, gli orecchini oscillavano, catturando la luce che entrava dalle finestre. E lui capì. Quel pomeriggio arrancai su per le scale e indugiai davanti alla porta. Non era una delle solite sedute, questa. Lui mi avrebbe chiesto una certa cosa e io ero in debito verso di lui. Aprii la porta. Se ne stava seduto davanti al cavalletto, intento a esaminare la punta d'un pennello. Quando levò lo sguardo su di me, sul volto gli vidi qualcosa che non avevo mai visto fino ad allora. Era in preda all'ansia. Mettiti questi. Signore, non mi chiedete questo. È necessario. La composizione non è equilibrata. Vi ho visto dipingere senza nessuno. Non pretenderei che immagini l'effetto dell'orecchino. Lei lo scoprirà. Deve essere così, Grit. Senza di esso c'erano solo i miei occhi, la mia bocca, lo scollo della camicia, la zona buia dietro il mio orecchio, ma come pezzi separati e indipendenti. L'orecchino li avrebbe legati, avrebbe fatto sì che il quadro fosse perfetto. Ma mi avrebbe anche gettato in strada. Nessuna serva aveva mai fatto una cosa simile prima. Se Catarina avesse visto il suo orecchino nel quadro, sarebbe scoppiato un pandemonio. Alla seduta successiva non fece più cenno all'orecchino. Sbatté la spatola sulla tavolozza e la ripulì dal colore con uno straccio. Apri la bocca. Signore. Apri la bocca. Rimasi talmente stupita da questo ordine che la bocca mi si aprì senza che lo volessi. E non mi decidi le labbra. Lavorai tutta la mattina a bollire e a sciacquare il bucato. La mente vagava di qua e di là su vari argomenti mentre me ne stavo seduta sulla vasca di acqua fumante. Ad un tratto apparve Maria Tins. Mia figlia resterà fuori tutto il giorno. Se ne stava in piedi sulla porta, scuotendo qualcosa che aveva in mano. Mi asciugai una mano nel grembiule e gliela tesi. Maria Tins mi fece cadere nel palmo un paio di orecchini di perla. Fallo adesso. Capì che il quadro doveva essere completato. Mi affrettai incespicando per il corridoio senza nemmeno torcere la biancheria. La porta dell'atelier era spalancata. Entrai stringendo le labbra, lo stomaco contratto. Mi chiusi la porta alle spalle. Mi stava aspettando. Tesi la mano e gli lasciai cadere gli orecchini nel palmo. Venne verso di me. Serrai la mascella ma cercai di tener ferma la testa. Allungò una mano e mi toccò delicatamente il lobo dell'orecchio. Ansimavo come se avessi trattenuto il respiro sott'acqua. Strofinò il lobo gonfio tra il pollice e l'indice. Poi lo tirò. Con l'altra mano infilò il gancio dell'orecchino nel lobo. Un dolore come per una scottatura mi assalì e mi riempì gli occhi di lacrime. Lui non toglieva la mano. Le sue dita mi accarezzavano il collo e mi passavano sopra la mascella. Percorse tutto il lato del viso fino alla guancia. Poi col pollice asciugò le lacrime che mi scendevano dagli occhi. Quindi lo passò sul labbro inferiore. Poi chiusi gli occhi e lui ritirò le dita. Quando li riaprì, era tornato al cavalletto e aveva preso in mano la tavolozza. Guardami. Gira la testa, non le spalle. Guardami. Ecco, così. Rimasi seduta tutta la mattina e lui si mise a dipingere l'orecchino. Quando alla fine posò pennello e tavolozza, io non cambiai posizione, nonostante gli occhi mi facessero male a furia di guardare di lato, ma non volevo cambiare posizione. Decisi di rimandare a sera, quando avrei potuto contemplarlo senza paura che arrivasse qualcuno. Attraversai la stanza e mi chiusi la porta alle spalle. Mi pentii per tutta la vita di questa decisione. Non riuscii mai a contemplare il quadro finito. Il giorno dopo andai al mercato e con gli occhi cercavo Peter, ma al suo bancone della carne non lo vedevo. In quell'istante mi sentii avvinghiata da dietro e il mio cuore si riempì di gioia. Non scappare via, Grit, resta. Lascia quella casa. Lavora con me e Paola al mercato delle carni. Devo tornare. Prenderò io le tue cose, manderò qualcuno. No. La nostra vita, Grit. Senza obbedire a nessuno. Sposami. Dopo aver sparecchiato, tornai in cortile a finire di risciacquare il bucato. Dovevo portare altra acqua e riscaldarla. Udii uno scricchiolio di gradini e un respiro affannoso. Caterina si stava trascinando su per le scale. In quel momento seppi che cosa stava succedendo. A lei, a lui, a me. Udimmo i passi pesanti di Caterina andare verso la porta dell'atelier. Maria Tins si avventò su per le scale. Io rimasi in ginocchio, troppo stanca per rialzarmi. Poco dopo si udì un urlo di rabbia, quindi voci acute che prontamente si abbassarono. La figlia Cornelia scese e mi disse di salire. Anche lui era lì. Caterina aveva pianto, aveva il naso rosso, gli occhi gonfi. Non voglio più sentire le tue menzogne, madre! Ho il diritto di sapere! Lui era in piedi, vicino alla moglie, il viso privo di espressioni, le mani lungo i fianchi, gli occhi fissi sul quadro. Allora, niente più segreti. Sono qui. Voglio vedere questo quadro. Non ce n'è motivo. Non c'è motivo? Ora sono così stupida da non poter guardare un quadro. Siediti, ti stai stremando. Perché non posso vederlo? È solo una commissione, sparirà giorni, non c'è ragione che tu lo veda. Non sono che quadri, dipinti per denaro. Non significano niente. È vero che hai indossato le mie perle. Come hai potuto? Mostrami questo quadro. Ti farai del male. Mostramelo. Quando gli occhi le caddero sulla tavolozza, fu assalita da un brivido. Perché non dipingi me? Perché tu non capisci. E lei invece sì. Afferrò una spatola e si lanciò. Nello stesso momento anche il marito si avventò sul quadro. Lei era svelta, ma lui lo era di più. L'afferrò per il polso mentre stava per affondare la lama della spatola nella tela. La bloccò un attimo prima che toccasse il mio occhio dipinto. Mandala via! Caterina oppose resistenza, ma lui le teneva il polso con fermezza, aspettando che lasciasse cadere lo strumento. Via dalla mia casa! Mi girai e uscii dalla stanza. Scesi le scale e superai la porta principale. Una volta in strada, non mi voltai a guardare le bambine. Attraversai il ponte, diretta alla piazza del mercato. Raggiunsi il centro della piazza e mi fermai là, dove quel cerchio di mattonelle disegnava la stella a 8 punte. Ogni punta indicava una direzione che avrei potuto prendere. Potevo tornare dai miei genitori, potevo cercare Peter al mercato delle carni e accettare la sua proposta di matrimonio. Potevo andare a casa di Van Ruyven, mi avrebbe accolta con un sorriso. Potevo andare a Rotterdam, potevo andarmene lontano per conto mio da qualche parte. Potevo tornarmene al quartiere dei papisti. Potevo entrare nella chiesa nuova e pregare Dio che mi aiutasse. Potevo rimanermene in quel cerchio continuando a girare mentre pensavo. Quando feci la mia scelta, quella che sapevo di dover fare, misi i piedi attentamente lungo il raggio di quella punta e seguì la via che mi indicava, camminando a passi decisi. Me ne stavo in cucina nella mia casa a rammendare quando, alzando lo sguardo, me la vidi davanti. Non la vedevo da 10 anni. Era Tanneke, rimasta più o meno la stessa, anche se era diventata un po' più grassa. Se ne stava in piedi in disparte e non si capiva se era veramente venuta a trovarmi. Ma io sapevo che non poteva essere un caso. Per 10 anni era riuscita a evitarmi. Non mi ero mai imbattuta in lei al mercato delle carni, né lungo qualcuno dei canali principali. Si avvicinò riluttante al banco. Questo è per te. Mi diede in mano un fagottino chiuso con la cera lacca. Mi disse che erano state le sue ultime volontà e se ne andò. Indugiai, poi lo aprii con delicatezza. Erano freddi e lisci al tocco, come li avevo sempre ricordati, e nella loro rotondità grigia e bianca era riflesso un mondo. Testo tratto da La ragazza con l'orecchino di perla di Tracy Chevalier, editore Neri Pozza. Dedichiamo questa puntata a Fabio Rudi Cantadori, amico e collega dalla battuta pronta e dal cuore grande, che se n'è andato all'improvviso, lasciandoci attoniti e tristi. Ciao Rudi, ti vogliamo bene, Laura e Paolo. Audiogrammi è un programma ideato e condotto da Laura Faggin e Paolo Corleoni. Voce Laura Faggin. I love you just the way you are. A cinema.